Donne, media, partecipazione, stereotipi. Questi i cardini su cui si basa la seconda giornata di lavori alla conferenza internazionale di Marrakesh sui media e le nuove tecnologie in vista del summit mondiale sulla società dell'informazione. Secondo la coordinatrice africana dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie, Michelle Ndiaye-Ntab, le donne, nonostante un ruolo prioritario nella società Tukur, hanno ancora un ruolo troppo marginale nella gestione dei media, sia dal punto di vista manageriale che tecnico. L'educazione tecnica dunque devono essere afferrate a due mani per mettere in atto quel processo che comunque non si preannuncia facile. Abdelmounaim Dilani, presidente della Federazione Marocchina degli Editori di Giornali, ricorda che il ruolo della donna nella stampa aumenta di pari passo con la professionalizzazione della stampa stessa. E anche su questo punto esiste una particolarità marocchina, ovvero una stampa che si divide in francofona e arabofona. Mentre la stampa francofona conta circa il 40-50% di giornaliste e donne, di cui 3 donne direttrici di settimanali e una capo redattrice, dunque il 30% circa dei posti di responsabilità, nella stampa arabofona la percentuale di presenza al femminile cade al 20%, con una assenza totale di ruoli di direzione, una frattura dunque anche culturale che si riflette nella partecipazione nei media. Questa è una visione quasi ottimista che in realtà Nargis Regaie, giornalista e attivista di diritti umani, rimanda al mittente. Nargis inizia il suo intervento con una famosa dichiarazione di Simone de Beauvoir: la donna è un uomo come tutti gli altri, ma nell'autostrada dell'informazione, continua Nargis, il suo ruolo è ancora troppo spesso relegato a quello di una autostoppista. Dopo le sessioni plenarie, il pomeriggio e la giornata di domani saranno dedicati ai gruppi di lavoro che avranno come obiettivo la stesura dei documenti preparatori alla base delle dichiarazioni finali che saranno adottate. I gruppi di lavoro oggi sono 3: Internet governance, questioni di genere e ruolo dei media nella società dell'informazione. E mentre il re Mohammed VI vola in America Latina per un round di incontri diplomatici, l'apertura del sistema radiotelevisivo marocchino sta già portando i primi frutti. La neonata Autorità Nazionale dell'Audiovisivo ha annunciato infatti di aver già ricevuto più di 60 proposte per la nascita di nuove emittenti. L'80% di queste si indirizza alla creazione di nuove radio. Da Marrakesh, Francesco Diasio, Amisnet, linea allo studio.